Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Quanta energia c'è sotto i nostri piedi, ma soprattutto quanta ne possiamo utilizzare? Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt, che stasera parte da una domanda la cui risposta potrebbe essere rilevante soprattutto per l'Italia, che è un paese notoriamente molto caldo dal punto di vista sismico e vulcanico. Ebbene, una risposta parziale a questa domanda, parziale perché limitata a 4 regioni del sud, potrebbe arrivare presto da un nuovo programma di rilevamento e di mappatura delle risorse geotermiche. Il programma si chiama Vigor, sta per partire ed è curato dal Dipartimento Terra e Ambiente del CNR. In linea con noi per parlarne ci sono Giuseppe Cavarretta, che è il direttore del Dipartimento Terra e Ambiente e anche responsabile scientifico del progetto, la dottoressa Adele Manzella. Buonasera a tutte e due. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Cavarretta, partiamo da lei. Quale sarà l'output, tanto per cominciare, del vostro lavoro? A chi servirà e a cosa servirà? Iniziamo da qui. Certamente. Intanto precisiamo che si tratta di un programma gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del POI Energia, che ha stipulato con il CNR un'intesa per realizzare una valutazione, prima di tutto, del potenziale geotermico nelle 4 regioni della convergenza, che sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, per un uso diretto dell'energia geotermica e anche per una possibile produzione elettrica, non solo uso diretto in termini di sfruttamento con pompe di calore. Ecco, qui dobbiamo appunto ricordare che quando si parla di energia geotermica c'è la cosiddetta bassa entalpia, cioè bassa temperatura, e si usa appunto per fare il riscaldamento, e se invece ci sono risorse a temperatura più alta ci si può anche produrre energia elettrica, insomma, e voi andrete alla ricerca di tutte queste tipologie. Esattamente, perché le 4 regioni dal punto di vista geologico sono molte diverse, ma addirittura questa variabilità sussiste anche a livello della singola regione, ma anche i bisogni, voglio dire, sono diversificati, quindi la realizzazione di un'importante crescita di produzione di energia anche a bassa temperatura per usi diretti attraverso le pompe di calore ci potrà vedere realizzare una importantissima crescita dello sfruttamento attuale, mentre noi in Italia con lo sfruttamento dell'energia geotermica per produzione elettrica siamo già molto ben posizionati storicamente, sì, da oltre un secolo, ecco, con una produzione di circa 840 megawatt che ci pone al quinto posto al mondo. Noi dobbiamo crescere di molto con la produzione di energia da termica, pompa di calore, certo, dove invece l'Italia è malamente posizionata. Ecco, senta, il progetto si compone di varie fasi, proviamo a dirle molto rapidamente. Sì, le varie fasi, per essere breve, partono dalla valutazione, quindi con una raccolta d'analisi critica, sistematizzazione dei dati esistenti, nuove indagini dirette di campo per colmare le lacune di conoscenza laddove esistono, per avere una valutazione completa sia per i livelli profondi che quelli superficiali e quindi degli studi di fattibilità in aree selezionate da concordarsi con le regioni. Cioè identificherete insieme alle regioni delle aree specifiche sulle quali farete, per così dire, un approfondimento andando a identificare che cosa però? Faremo una valutazione del potenziale quantificandolo, anche delle tipologie di impianti che potranno essere lì installati. Come dire, che in quelle 4 aree poi si tratterebbe di trovare uno che ci mette i soldi, insomma, si potrebbe partire subito. Esattamente, e viene proprio fatto per questo, per fornire agli operatori strumenti e al Ministero per poter subito fare dei bandi per lo sfruttamento. Dunque Manzella, di recente, diciamo, l'importanza almeno in prospettiva del geotermico negli ultimi anni è cresciuta perché si sono messe a punto delle tecnologie che si chiamano a ciclo binario, e qui non abbiamo il tempo di approfondirle, ma che in sostanza consentono di sfruttare temperature abbastanza basse, tra 80, 100, 120 gradi. Ce ne vuole parlare un attimo, Manzella? I cicli binari permettono, sì, esattamente, di utilizzare temperature dai 85 gradi. Da un punto di vista tecnico si possono arrivare anche a utilizzi a 85 gradi, però economicamente cominciano ad essere interessanti ai 110-120 gradi. Risorse di questo tipo sono molto più estese di quelle pregiate, come possono essere quelle tossiche, toscane e quindi si può prevedere facilmente un larghissimo uso nei territori italiani, ed è proprio per questo che Vigor si concentra in particolare in zone di non eccezionale anomalia termica, come le zone vulcaniche, ma che sono anche più conosciute tra l'altro proprio per queste ragioni, no? Sì, ci concentreremo invece in zone più, tra virgolette, normali, proprio per incentivare al massimo, con il nostro esempio, l'uso e lo studio di tutte le aree dove applicare questi sistemi binari. Ecco, tra l'altro l'Italia è un paese nel quale l'industria è bravissima a lavorare su questo fronte. Noi andiamo in giro per il mondo a fare impianti geotermici, o sbaglio? Noi abbiamo insegnato a fare la geotermia di altissima entalpia in tanti posti, abbiamo operatori che fanno anche utilizzo di sistemi binari all'estero, e non c'è invece ancora un'applicazione in Italia, anche se questo interesse è chiaro dal numero incredibile di permessi di ricerca richiesti in tante regioni italiane, anche al sud. Parlato di indagini sul campo, in che cosa consistono? Queste indagini sono di approfondimento delle conoscenze del sottosuolo, quindi a partire da tecniche di rilevamento da aereo per investigare i sistemi idrogeologici, qui più superficiali, e poi in 8 aree andremo invece ad approfondire sul campo, quindi proprio al suolo, con metodi geochimici, geofisici, idrogeologici e con con Pozzetti. Un po' di buchi, insomma, da bravi geologi, se no, insomma, non vi sentite a vostro agio. Va bene, grazie Cavarretta, grazie Manzella, buon lavoro. Grazie. È tutto, scriveteci a mr.kilowatt@radio24.it, l'appuntamento è per lunedì, buon fine settimana a tutti.